Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche di cose positive, lo dico perché poi la puntata, diciamo, ha degli elementi di criticità, però rispetto a altre giornate, cito in ordine sparso quanto a temi di oggi. Da un lato l'apertura del vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che sul tema, che sembra tecnico ma non è, dell'output gap, ossia la differenza, come viene valutato il PIL e quindi anche il rapporto PIL su deficit dall'Europa e da altri paesi. E cioè, abbiamo spiegato altre volte che l'output gap è la valutazione di come andrà il PIL incorporando anche le riforme messe in piedi, e invece l'Europa guarda delle volte, che è un approccio utilizzato per esempio da molti organismi internazionali, la Commissione Europea invece guarda il PIL attuale. Allora c'è una polemica in corso che include l'Italia ma anche Francia e Spagna con Bruxelles, dicendo tu devi valutare quello che è, sarà il PIL come conseguenza anche delle riforme messe in piedi adesso, per esempio, ma che i loro effetti non li esercitano subito. Oggi il commissario europeo, dicevo, Dombrovskis, si è detto disponibile come Commissione Europea ad esaminare la questione. La richiesta fu avanzata dall'Italia ma da altri 7 paesi assieme all'Italia per una revisione dei calcoli su cui si stima il PIL, e questa comunque già l'apertura. È un'apertura importante. Dombrovskis poi ha detto che la ripresa italiana è piuttosto sommessa, quindi debole. Ha detto che quest'anno, se verrà accordata tutta la flessibilità e la decisione non sarà ancora presa, l'Italia avrà un limite dello 0,75% sulla flessibilità, che vuol dire una cifra intorno ai 10 miliardi di euro, 11 miliardi di euro, considerato che il PIL più o meno vale 15 miliardi di euro. E ancora altre dichiarazioni di cui parleremo più avanti. Questa è una prima notizia, insomma, di speranza. Un'altra buona notizia invece riguarda un'iniziativa che oggi ha presentato la Fondazione Caripo con un investimento importante per aiutare chi vuole lanciare un'impresa, le cosiddette start-up. Non sono solo i giovani, ne parleremo. Sapete che domani, come sempre, accanto e dopo la poco invidiabile classifica di Focus Economia, presentiamo sempre il caso di un imprenditore che si è rimboccato le maniche, di un italiano che si è rimboccato le maniche e ha lanciato un'impresa. E c'è un'iniziativa importante anche economicamente per quello che si chiamano acceleratori, cioè per dare una mano, detto in maniera brutale, sia economica, sia logistica, sia di consulenza, a chi ha già un'idea ma magari ci metterebbe degli anni a svilupparla. Ed è importante perché ha obiettivi ambiziosi sia sul fronte occupazionale sia sul fronte di quante società lanciare nei prossimi anni, e vede una partecipazione economica fondamentale della Fondazione Caripo, visto che spesso critichiamo le banche e le fondazioni bancarie per non aiutare abbastanza chi vuole lanciare le imprese. Commentiamo positivamente anche un'operazione di questo genere. Poi parleremo, come sempre nel corso del programma, anche del resto della giornata economico-finanziaria. Parleremo anche dell'assemblea di Finmeccanica e delle indicazioni che sono arrivate dal principale gruppo italiano nel settore aerospazio difesa, e avremo ospite l'amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti. Per quello che riguarda la borsa, vado subito al dato. Oggi più 1% Milano, in netta controtendenza rispetto alle altre borse europee. Che cosa la giustifica? Beh, come spesso avviene in questi casi, titoli bancari, ma non solo, perché c'è Saipem che sta crescendo dell'11,40%, quindi Milano fa più 1%, mentre Francoforte fa più 0,1%, Parigi meno 0,30%, Londra meno 0,11%, il Dow Jones meno 0,16%. Noi siamo in netta controtendenza, dicevo, sia per Saipem e poi per una pattuglia di titoli bancari: il Banco Popolare più 4,15%, Unicredit più 4%, Pop Emilia Romagna più 3% come la Pop Milano, Mediolanum più 2,30%, UbiBanca più 2% e il Monte dei Paschi più 2%. Bene anche Telecom Italia più 3,70%, Fiat Chrysler più 2,5%. 0,1%. Il fronte opposto, Campari meno 2, Moncler meno 1,30, Estima Electronics meno 1, Generali meno 0,70, Luxottica meno 0,70%. Enel invece, visto che me lo chiedete, più 1,70, euro quota 1,13. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda le notizie, vedo alcuni messaggi su Oscar Giannino. Guardate che, insomma, che io e Oscar Giannino la pensiamo in maniera diversa su molte cose. Se permettete, è il bello anche delle opinioni, no? O volete una radio uniforme, omogenea, tutta, diciamo, con un'unica linea? Oscar Giannino sulla Germania è molto più morbido di me, è molto più duro di me sulla spesa pubblica, ma soprattutto sul ruolo dello Stato. Insomma, sono due approcci completamente diversi, perché, insomma, non so se uno abbia la possibilità di ascoltare sia Giannino che il sottoscritto, ma insomma, qual è il problema? Bon, andiamo avanti con le notizie invece. Per quello che riguarda il Giappone, partiamo come sempre dalle notizie internazionali. Beh, intanto il petrolio oggi è in rafforzamento di nuovo ed è ancora una volta sopra i livelli che non vedeva da novembre, a $45.50 al barile. Per quello che riguarda il Giappone, dicevo, la Banca Centrale del Giappone ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, ma ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione. Però spera di ottenere l'obiettivo di un'inflazione al 2% entro il 2017. Quest'anno prevede un'inflazione in crescita di solo lo 0,5% e un 1,7% l'anno prossimo. Rallenta l'economia americana, già c'erano stati dei segnali che aveva, così per così dire, incorporato anche la Federal Reserve, facendo capire a tutti che al massimo quest'anno avrebbe fatto un rialzo dei tassi di interesse, non di più. Oggi il dato viene confermato, rallenta il PIL statunitense, è cresciuto nei primi tre mesi dell'anno di solo lo 0,5%, gli analisti scommettevano sullo 0,7%. Faccio notare che nell'ultimo trimestre del 2015 l'economia americana era cresciuta dell'1,4%, e questo 0,5% dei primi tre mesi è l'incremento più basso da due anni a questa parte. Rallentano i consumi negli Stati Uniti, è meno 1,9%, sono saliti solo dell'1,9% contro crescita intorno al 2,5% nel 2015. E a questo proposito, oggi Barack Obama, in un'intervista al New York Times, definisce fantasia i piani economici dello sfidante alla Casa Bianca. Lui parla di tutti i candidati della destra, il riferimento immagino che sia soprattutto a Donald Trump. Se si guarda le loro piattaforme, non sfidano nessuna logica o teoria economica, sono semplicemente fantasia. Restiamo negli Stati Uniti, dove è arrivata un'operazione molto importante sul fronte, diciamo, della cinematografia, ma non solo, perché Comcast ha acquistato DreamWorks Animation pagandola $41 per azione. Sostanzialmente tirerà fuori 3,8 miliardi dollari. La transazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno. Invece ha cambiato rotta completamente il titolo Facebook, che va molto bene in borsa negli Stati Uniti, ha superato anche il 9% dopo i dati sopra le attese diffusi da Zuckerberg. Praticamente l'utile per azione è a 77 centesimi sopra le attese, si scommetteva su 63 centesimi, e i ricavi sono a 5 miliardi e 380 milioni di dollari contro i 5 miliardi e 200 milioni attesi dal mercato, tant'è che Mark Zuckerberg ha detto: abbiamo avuto un buon inizio anno e abbiamo chiuso il primo trimestre con 1,650 miliardi di amici, che non è una un delirio, vuol dire insomma di persone che sono su Facebook, 1,650 milioni di persone. Anche in questo caso sopra l'attese, così come sopra l'attese è l'utile della Ford, che ha chiuso il primo trimestre con 2 miliardi e mezzo di dollari, più che raddoppiato rispetto a 1 miliardo e 200 milioni di dollari dello stesso periodo del 2015, i ricavi crescono dell'11%. Poi c'è una notizia che trovate sul Sole 24 Ore che a mio avviso però insomma, è interessante da ogni aspetto la si prende, perché i 2000 dipendenti della Chobani, che è una fabbrica di yogurt, vuol dire che cavolo c'entra? No, non c'entra. È una fabbrica di yogurt che va fortissimo, vende tantissimo a New York e negli Stati Uniti. Fu creata nei primi anni 2000 dall'immigrato curdo Hamdi Ulkaya e ha adesso, pensate, 1 miliardo e 600 milioni di dollari. Ecco perché io sono sempre scettico quando qualcuno mi dicono ma l'economia è finita, i settori innovativi, c'è gente che fa soldi anche, basta avere le idee e svilupparle e poi trovare qualcuno, ne parleremo fra poco, che ti aiuti. Però insomma, questo con gli yogurt è arrivato ad avere un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni di dollari. Ma la cosa più importante è che ha incontrato pochi giorni fa tutti i suoi 2000 dipendenti, non sono pochi, a cui ha annunciato che avrebbe regalato a loro il 10% della società. Società che è valutata a circa 5 miliardi di euro, per cui sono quasi 250 mila dollari a testa per i dipendenti. E tra l'altro è una società che deve quotarsi a Wall Street, quindi se avranno il 10% distribuito prima della quotazione potrebbe anche incrementare. Pensate che questi 2000 sono stati scelti da Ulukaya nel corso degli anni tra immigrati senza lavoro, e so già che adesso arriverà qualche genio con la critica che sono un comunista, che sembra Radio Popolare, ma insomma questa è un'esperienza, non dico replicabile dovunque, ma intanto ascoltiamola. Lui li ha assunti tra immigrati senza lavoro, poi ha aggiunto: il sogno della mia vita è diventato realtà, condividere Chobani con le 2000 persone che hanno contribuito a crearla. Non è un dono, ha spiegato i dipendenti, è una mutua promessa di lavorare assieme per uno scopo e una responsabilità comune, anche perché il 10% di una società può anche crollare di valore se non si lavora bene, non è un regalo e basta. Comunque, questo l'immigrato curdo, ogni tanto qualche storia positiva ci può anche far bene, l'immigrato curdo Hamdi Ulukaya. Andiamo a notizie meno positive. In Spagna la disoccupazione sale al 21% nel primo trimestre, la prima volta che sale nel giro di un anno. Cala invece in Germania la disoccupazione, sono 2 milioni e 700 mila senza lavoro in Germania, in Spagna sono 4 milioni e 800 mila. E sempre in Germania veniamo a sapere che il governo tedesco intende limitare le prestazioni sociali ai cittadini dell'Unione Europea che vivono in Germania. Devono essere, lo ha detto il ministro del lavoro Andreas Nahles, e sostanzialmente devono aver maturato i diritti dell'assicurazione sociale che si acquisiscono solo dopo 5 anni di lavoro senza aiuti dallo Stato. Nel frattempo in Germania l'inflazione è tornata negativa, meno 0,1%. Deutsche Bank, qualcuno mi scrive sulla polemica di ieri sui tedeschi, guardate che io mi sono limitato a far notare che mentre in Germania sono ossessionati Weidmann, non solo, Schäuble, dal fatto di conteggiare, di non considerare senza rischio i titoli di Stato in pancia alle banche, quindi italiane e spagnole in primis, che è a mio avviso un assurdo, perché insomma, è chiaro che se devi pensare che lo Stato fallisca, ma chi se ne frega del rischio bancario, non c'è più l'Europa, non c'è più... La Germania però si dimentica sempre, è così leziosa addirittura nel voler imporre un rischio, è stata comunque respinta con perdita dall'Unione Europea anche sul titolo di Stato, e si dimentica invece di come contabilizzare i derivati in pancia. Il ministro Padoan giustamente fa notare ai tedeschi che la media dei derivati nelle pance delle banche italiane è intorno al 10%, nelle banche tedesche siamo al 20%. Allora vogliamo dire che è meno rischioso un derivato con quello che è successo nel 2008 a leva rispetto a un titolo di Stato, o vogliamo cambiare pusher? Chiedo. Oggi Deutsche Bank nel frattempo chiude i primi tre mesi con un utile netto di 236 milioni, che è dimezzato, meno 50% rispetto ai 559 milioni dello stesso anno. I ricavi hanno fatto meno 22%, riflettendo le condizioni di difficoltà del mercato dei capitali e l'uscita di alcuni business. Nel frattempo anche il colosso Volkswagen ha pubblicato i dati e ha iniziato 2016, lo dice il nuovo numero uno Matthias Müller, 2 milioni e mezzo di veicoli, più 0,8%. La perdita del 2015, quella che commentammo la settimana scorsa, ci fa male. Chiederò scuse ufficiali al presidente Obama sul Dieselgate. Il 2016 sarà un anno di transizione e ripartiremo l'anno successivo. I dati del 2015 sono oscurati appunto dal Dieselgate. Allora, non vedo novità nell'incontro Alfano, veniamo all'Italia, con il suo omologo di Vienna. Sul confine la rete di 370 metri, ne abbiamo parlato a lungo ieri. Il presidente del Consiglio Renzi oggi, nel corso della diretta hashtag Matteo risponde, ha detto poco fa che chiudere i confini è una scelta slegata da ogni realtà. Poi ha parlato anche di altre cose, che vi sarà un sostegno per le partite IVA tra maggio e giugno con un provvedimento sulla competitività, che abbassare l'IVA in questo momento non è la priorità. È stata aumentata per ultimo dal governo che mi ha preceduto, non ho condiviso quella scelta, ma ora, immaginando di avere soldi, non li metteremo sulla riduzione dell'IVA, ma devono essere messi in mano ai lavoratori e agli imprenditori che investono nella propria azienda. Adesso parliamo anche di Don Voskis, parleremo più avanti nel corso dell'approfondimento. Parliamo anche di Confindustria, quindi l'azionista di maggioranza del gruppo Sole 24 Ore. Perché? Perché oggi il Consiglio Generale di Confindustria ha dato via libera alla squadra proposta dal neopresidente designato Vincenzo Boccia, 107 voti positivi su 157 votanti, quindi ampia maggioranza. Tra i sei vicepresidenti, Maurizio Stirpe è stato proposto, che è presidente di Unindustria Roma, per il lavoro e le relazioni industriali, Giovanni Brugnoli per il capitale umano, Giulio Pedrollo, che è presidente di Confindustria Verona, per la politica industriale. Confermata invece Lisa Ferrarini per l'Europa, Alicia Mattioli per l'internazionalizzazione e Antonella Mansi per l'organizzazione. Poi ci sono tre vicepresidenti di diritto, quindi Alberto Baban, presidente della piccola industria, Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori, e Stefano Pari, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali. Il presidente designato Vincenzo Boccia mantiene invece per sé alcuni capitoli strategici, per esempio il credito alla finanza, l'energia e le reti d'impresa, e anche, diciamo, il riferimento per la delega alla presidenza. Alla presidenza farà capo la delega al centro studi. Il presidente uscente di Confindustria, Giorgio Squinzi, le ha definite scelte importanti per le sfide che attendono Confindustria nei prossimi anni. Sentiamo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. C'è una nuova squadra che è stata approvata e quindi direi che la transizione sta andando avanti tranquillamente, non prevedo ulteriori problemi. Le sfide del nuovo Confindustria sono le sfide del paese, cioè ritrovare la crescita, essere competitivi nel mercato globale. Abbiamo ancora tante cose da fare, certamente. Io ho sempre affermato che dobbiamo spingere perché vengano finalizzate le riforme, perché il nostro paese non ritroverà una crescita forte se non verranno portate fino in fondo le riforme. Diana Bracco, Antonella Mansi, la Ferrarini, anzi io ne avevo quattro, quindi è normale, le donne sono forti, ragazzi. E allora anche Emma Marcegaglia commenta, ex presidente Confindustria, la squadra dei vicepresidenti, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, così come sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta il commento di un altro ex presidente, Luigi Abete, sentiamoli assieme. Più o meno nelle previsioni, insomma un 70%, come avete visto, di approvo, quindi secondo me bene, una buona squadra, anche l'advisory board, come avete visto, ci sono i rappresentanti delle principali aziende italiane a controllo pubblico e anche molte private, quindi insomma mi sembra una bella squadra che avrà sicuramente, dovrà fare un lavoro importante, che al momento non è dei più semplici anche sulla, in generale, insomma, su tutte le sfide che ci sono, però insomma secondo me è una buona squadra con, come diceva lei, un passo in avanti. Faremo l'ultimo in assemblea e poi finalmente si comincerà a lavorare. Siamo una bella squadra, equilibrata, sia nel rapporto tra uomini e donne, che comunque è un riferimento di modernizzazione nei comportamenti che il paese deve cominciare a praticare in modo naturale, sia perché i nuovi vicepresidenti vengono da realtà associative molto importanti, da Verona, da Varese, da Roma, quindi rappresentano un rafforzamento del coinvolgimento dei territori nella struttura di Confindustria centrale, quindi direi che anche il consenso è stato notevolmente più rilevante rispetto alla prima votazione, perché siamo andati nell'ordine del 70-75% in relazione al fatto che consideriamo meno le schede bianche, e quindi il processo di integrazione continua in modo direi normale, ordinato e come tutto era previsto fin dall'inizio. Tra persone le quali hanno un po' di esperienza di Confindustria, io faccio parte di quella categoria. Allora, chiaramente in bocca al lupo alla nuova squadra, parleremo con loro dei vari temi, delle varie sfide. Adesso vedo la chiusura di Milano. Più 1,05%, appunto, conferma di essere in controtendenza con le altre rispetto alle altre borse europee. Dopo il metro, la pubblicità, il caso Saipem. Oggi è chiaro che Saipem risente in maniera più che positiva a questo punto dei dati presentati ieri, no? Utile a 61 milioni di euro, però insomma il recupero è veramente impressionante, quasi il 12%. So benissimo che ha perso, che è ancora a 43 centesimi di euro, però insomma 12% in una seduta, soprattutto su Saipem, non è poca cosa. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. Allora, la borsa, poi i soldi e le attività, gli spazi che la Fondazione Carpi mette a disposizione di nuovi imprenditori, non giovani imprenditori, nuovi imprenditori, possono essere giovani ma anche di un'altra età. E poi Mauro Moretti, l'amministratore delegato di Finmeccanica, che sarà il nostro ospite dalle 18:07 minuti nella seconda parte del programma. Iniziamo dalla borsa e soprattutto Saipem. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Saipem, dai. Allora, Saipem oggi rimbalza decisamente, guadagna il 12%, si riporta abbondantemente sopra i livelli dell'aumento di capitale. A spingere il titolo, essenzialmente due fattori: la trimestrale che è stata diffusa ieri con utili netti di 61 milioni, ma soprattutto con dei conti che sono superiori alle attese degli analisti, ma poi anche la conferma dei target 2016. Ricordiamo che in sede di aumento di capitale che si è svolto in inverno, con l'inizio del 2016, Saipem aveva avvisato il mercato sul fatto che un possibile stazionamento del petrolio su bassi livelli poteva portare a una revisione dei target di quest'anno e dell'anno prossimo. Questa revisione almeno per il momento non c'è stata e il mercato oggi ha festeggiato. Oltre che Saipem, bene alcune banche: Banca Popolare più 4,30, Unicredit più 4,20, Pop Emilia Romagna più 3,90, Pop Milano più 3,80, Mediolanum più 2,90, Monte dei Paschi più 2,5, UBI più 2,40. E devo dire che complessivamente l'indice si sta riportando a 19.000 punti, a 18.976. Ebbene Enel più 1,70 e Fineco Bank. Deboli in calo Moncler meno 1,40 come Campari, 1,30 il calo di ST Microelectronics, lo 0,50 lo perdono sia Atlantia che Luxottica, lo 0,30 è il calo delle generali. Nel giorno in cui si è venuto a sapere che il finanziere che controlla Invest Industrial, Andrea Bonomi, ha acquisito il gruppo Valtour, le generali invece, visto che vi facevo riferimento, hanno avuto l'assemblea degli azionisti, hanno approvato a stragrande maggioranza, al 98,17%, il bilancio del 2015, che ricordo si è chiuso con un utile di oltre 2 miliardi e 72 centesimi di euro per azione. Vorrei un commento su Azimut, perché è arrivato l'ok di Banca Italia alla riorganizzazione del gruppo. Sì, una riorganizzazione che era già stata annunciata e che soprattutto prevede la distribuzione di una cedola straordinaria di 1 euro per azione, ovviamente da aggiungere al dividendo ordinario di 50 centesimi in pagamento il prossimo 25 maggio. È arrivato il via libera dalla Banca d'Italia, ovviamente una notizia positiva per il titolo e per il mercato, il titolo ha chiuso in rialzo dell'1%. Allora, se su Saipem, che è il caso di borsa, pensate che è il miglior titolo in assoluto, adesso la chiusura definitiva è più 12,20. Di tuo listino, tu citavi giustamente i conti, l'intervista appunto di Stefano Cao sul Sole 24 Ore, a crisi passata saremo tagli attori forti, la sfida è oltre il petrolio, c'è tutto il tema con cui vorrei concludere, CEO, delle popolari oggi. Sì, una buona performance delle popolari che diciamo fino a metà seduta erano abbastanza timide sul listino, poi nel pomeriggio hanno accelerato e per esempio Popolare di Milano fa 3,8%, Biper 3,9%, il Banco Popolare più 4,3% e sono poi quelle che hanno messo un po' il turbo a Milano, che ha chiuso a un soffio dai massimi da metà dicembre come migliore da metà gennaio, migliore piazza del vecchio continente. Sicuramente sul mercato c'è diciamo crescente ottimismo su quello che è il piano a livello aggregato per cercare di rilanciare il sistema bancario italiano. Allora, su Saipem, ma chi scrive al 349-238-6666? Sappiamo benissimo che il titolo valeva nel 2012 5 euro per azione e che ancora nel 2014 a metà valeva 2,5 euro per azione, e che ancora il 15 aprile valeva 1,5 euro per azione e che era sprofondato. Detto ciò, non è che stiamo festeggiando, io capisco il problema degli azionisti, ma se pensate ai minimi toccati diciamo a febbraio 31 centesimi di euro o addirittura anche ad aprile di nuovo era 34 centesimi e a 32 centesimi, il fatto di vederla oggi in rialzo a 43 centesimi con un tale rialzo è significativo. Dopo Saipem c'è Giorgio Fedon più 9%, Gala più 7,60, KF più 5,37. Il fronte opposto invece è rappresentato da Go Internet meno 3,94, Munich Re meno 4,60, Materios Capital meno 6,20%. Grazie a Cio Conde nella Radio Corriere sulle 24 grazie ore. Traffico. Focus Economia. minuti. Allora, domani avremo, dicevo come sempre, dopo la poco invidiabile classifica, la nostra startup, la nuova società. Non è detto che sia fatta da un giovane, però ne vorrei parlare oggi perché, siccome spesso critichiamo l'assenza delle banche, delle fondazioni bancarie, diciamo di istituti che hanno come obiettivo non il profitto, ma far crescere l'economia e la cultura di un territorio, con piacere oggi presento un'iniziativa che è appena stata lanciata, cioè Caliplo Factory. È un acceleratore di startup, non dà i soldi per creare una nuova società, ma per accelerarne la realizzazione. Sarà inaugurata a giugno, avrà inizialmente uno spazio di 500 metri quadrati e poi uno più grande di 1500 metri quadrati. Ospiterà il progetto Grow It Up, avrà accordi con Microsoft, se ho ben capito, ma anche con altre società, Fastweb, Terne, Novartis. E investirà dei soldi, no, ripeto, non per dire sviluppa la tua attività, ma una volta che tu hai un progetto di impresa potrai avere un'accelerazione grazie a questa attività, grazie a questa iniziativa. Le startup si dividono infatti tra la parte di incubazione, cioè quando inizia a sviluppare l'idea, e poi l'accelerazione, vuol dire come questa idea la chiudi, la porti a compimento e la rendi commercializzabile e quindi anche sostenibile finanziariamente. Ricordo che l'ultimo dato di Infocamere vede una crescita delle startup a inizio anno, 5.439, sono il 6% in più, con un capitale medio di 51.000 euro. Tra l'altro i giovani sono importanti come numero, ma sono uno su 5, il 22%. È vero che nelle imprese già avviate sono solo 6%, la presenza femminile è il 13% E il settore d'attività preferito sono i servizi alle imprese, il 72% alle start-up, poi il 18% opera nell'industria in senso stretto e il 4% nel commercio. Siamo in collegamento con Carlo Mango, che è direttore dell'area scientifica, l'area ricerca scientifica della Fondazione Cariplo, a cui chiedo in primo luogo che cosa significhi che voi puntate nei prossimi 3 anni a creare 10.000 opportunità di lavoro. L'idea è proprio quello di considerare le job opportunity più che come obiettivo finale, ovvero un quadro di certamente generazione di opportunità di lavoro entro le start-up. Oggi diventa un tema anche estremamente importante in termini di numeri, è un tema anche molto importante in termini di qualità dei lavori che si offrono evidentemente ai più giovani, perché oggi il vero tema è anche forse offrire dei quadri occupazionali che siano in linea con le aspettative delle persone. D'altro canto però non esistono solo le opportunità che possono offrire le start-up, ma anche le opportunità che evidentemente devono essere offerte insieme al sistema delle imprese proprio nel mercato del lavoro. E lì lavoreremo per creare delle piattaforme che ci consentano di offrire ai nostri giovani più meritevoli un quadro di esperienze che li fortifichino enormemente, noi speriamo, nel mercato del lavoro. Quindi... Mi scusi Mango, però concretamente quanti soldi intanto ha messo la Fondazione Cariplo, che quest'anno festeggia i 25 anni di attività, in questo progetto Cariplo Factory, e quali aziende, grandi aziende verranno coinvolte? Perché immagino che poi voi come fondazione vi occupiate della parte di dare così il campo da gioco e la struttura, però poi il rapporto deve essere con aziende, con società private e che hanno come obiettivo l'utile. E poi vorrei capire una cosa sulle startup selezionate, però insomma i soldi messi da voi e con chi farete l'accordo di partner? Allora, noi abbiamo deciso di stanziare per questo progetto 10 milioni di euro per i prossimi 3 anni. È un impegno molto grande, è un progetto intersettoriale, quindi confluiranno in questa attività fondi che appunto pervengono dalle diverse aree della fondazione, quindi 10 milioni di euro l'anno e una raccolta di altrettanti fondi provenienti da altri sottoscrittori, da altri soggetti finanziatori, che intendiamo portare a raddoppio appunto questa cifra nell'arco proprio dei prossimi 3 anni. Quindi l'impegno è un impegno, devo dire, importante. I soggetti con i quali abbiamo iniziato a relazionarci e con i quali appunto partiamo per questo progetto ambizioso sono Microsoft, con la quale c'è un radicato, una relazione nell'arco degli ultimi 3 anni molto importante col progetto YouthSpark, a dire il vero con Microsoft Corporate, partito tutto, e continuiamo e rilanciamo appunto questa iniziativa, si chiamerà Grow It Up. E interesserà un numero estremamente molto importante di giovani sul tema appunto delle opportunità offerte dalle applicazioni digitali, quindi molto trasversale su tutti i settori dell'economia. E anche Altro partner importante sarà Fastweb, che assieme a noi cercherà di indirizzare la propria attività su delle piattaforme anche molto innovative che riguarderanno i giovanissimi, i giovani che sono nella fase poi invece dell'orientamento verso il mercato del lavoro, e infine una piattaforma che a noi piace molto sul tema appunto delle persone scalzate dal mercato del lavoro che possono grazie alle tecnologie rientrare magari con opportunità di lavoro qualificato. Altri soggetti che con noi hanno già intavolato delle relazioni e che verranno valorizzati in Cariplo Factory sono Novartis con la piattaforma BioApper, che è stata, che abbiamo ricordato prima, che abbiamo ricordato prima, una bella realizzazione Eterna, no? Poi e anche e poi Eterna. Allora, Eterna sul tema dell'energia. Un'ultima domanda, abbiamo capito che voi puntate a creare 10.000 opportunità di lavoro, che poi vediamo se si verificheranno, però sul fronte delle nuove società, delle start-up innovative, quante ne selezionerete nei primi tempi e che cosa le darete? Nel senso che oltre allo spazio, questo l'ho capito, vi sarà anche un percorso formativo, ma quante saranno all'inizio? Ma il nostro obiettivo è proprio quello di, negli arco dei 3 anni, di porci come obiettivo in circa 200 realtà da 200, accelerare. Okay. Noi offriremo dei servizi di accompagnamento e rafforzamento. Il nostro è un acceleratore. Tecnicamente noi lavoreremo con gli incubatori, non ci sostituiremo a loro. Offriamo quelle carte in più in tema di potenziamento e magari anche di rafforzamento anche dimensionale delle nostre startup, che molto spesso soffrono, no, di massa critica, no? Questo è un po' il tema che cercheremo di fare. Ecco, dicevo, opportunità per i giovani, ma anche opportunità per gli operatori. Cari Pro Factory vorrà essere una risorsa in più per tutti coloro che si occupano proprio di generazione di nuova impresa, non solo tecnologica. Vabbè, poi tutte le informazioni in dettaglio saranno sul sito, immagino, perché sì, vedo già i messaggi della Fondazione Cariplo, sotto la voce appunto Cariplo Factory. In bocca al lupo, so che appunto le prime saranno 10, no? A cui offrite uno spazio e avranno un percorso formativo di 2 mesi. In bocca al lupo per questa iniziativa, sperando che arriviate all'obiettivo di 200 nuove imprese, start-up da aiutare, non è che da creare, ma da accelerare nel loro sviluppo, e soprattutto poi la creazione di 10.000, fino a 10.000 opportunità di lavoro. Grazie al direttore dell'area ricerca scientifica della Fondazione Cariplo, Carlo Mango. Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori. Saluti. Adesso andiamo verso il GR24. Sì, lo so, inglesismi a gogo. Non è che possa tradurre tutto. Ho cercato di tradurre startup. E dopo parleremo di Leonardo e qualche. Di Leonardo. Qualche inglesismo, spero di correggerlo anche lì. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo di Leonardo, non solo perché, e non tanto perché, questa sera verrà presentato in anteprima alla Basilica a Milano di Santa Maria delle Grazie il film documentario della RAI Leonardo da Vinci, genio a Milano, ma anche perché Leonardo è il nuovo nome a cui dovremmo abituarci per chiamare un gruppo che è il primo gruppo italiano nell'aerospazio difesa e non solo, e quindi mi riferisco a Finmeccanica. La trasformazione del nuovo nome l'ha approvata oggi l'Assemblea degli Azionisti, dando anche via libera ai conti 2015, che hanno visto un risultato positivo di 507 milioni di euro contro i 20 milioni del 2014, l'utile netto che va a 253 milioni di euro e i ricavi in crescita di quasi il 2% a 13 miliardi di euro. Stiamo parlando infatti di un gruppo che è tra le prime 10 società al mondo nel settore aerospazio difesa, il 30% fa capo al tesoro, capitalizza complessivamente 6 miliardi e mezzo di euro, è presente in 15 paesi e conta oltre 47.000 dipendenti. Per parlare del nome, ma non solo, siamo in collegamento con il numero 1, l'amministratore delegato del gruppo Finmeccanica, ingegnere Mauro Moretti, buonasera. Buonasera a voi. La chiameremo come Leonardo Finmeccanica o Leonardo Finmeccanica? Ma credo che rapidamente transiteremo Leonardo, punto e basta. Il nome è stato scelto anche perché è molto semplice, memorizzabile immediatamente e quindi può sostituire in tempo breve Finmeccanica. Sì, tra l'altro io ricordo che nel passato c'era addirittura chi, anche tra i colleghi, faceva confusione tra Finmeccanica e Federmeccanica, Refusi, Lapsus, chiaramente sono due cose diversissime. Poi se si va la in borsa FNM e Nord Milano, sì, non è Finmeccanica, quindi è veramente un bel problema che abbiamo dovuto gestire. E immagino che adesso, non, io non voglio concentrarmi sul nome, ma è importante anche il marchio che si dà alle cose, e immagino che poi sui mercati internazionali sia un nome anche più memorizzabile di Finmeccanica. Leonardo, questo, diciamo, è il motivo, questo è il motivo fondamentale, Leonardo si tiene subito in mente, rappresenta l'Italia migliore, l'Italia che dal Rinascimento ha fatto l'innovazione più avanzata, la curiosità. Il motto sarà Ingenuity at your service, cioè l'ingegno al tuo servizio. E l'ingegno è quello che noi vogliamo perseguire. Questa è la nuova Finmeccanica, focalizzata solo sull'aerospazio, difesa e sicurezza, che smette di essere una finanziaria, perciò non serviva più il nome Fin, smette di fare troppa manifattura, ci concentriamo molto di più sulla parte dell'ingegneria, e quindi una fabbrica di ingegneri, una fabbrica industriale ingegneri globale, ha bisogno di cambiare nome, e considerando che abbiamo avuto anche degli ottimi risultati, abbiamo pensato che questo fosse il periodo migliore per farlo. Adesso arriveremo ai risultati, però già lei anticipava, Moretti, le linee strategiche, come si chiamano in gergo, di cui oggi approvati in assemblea degli azionisti, le avete presentate come consiglio di amministrazione, però cosa vuol dire, per far capire a tutti gli ascoltatori, che Finmeccanica, che da sempre, c'era chi aveva detto che rischiamo la nuova IRI, ma c'era stato un periodo in cui Finmeccanica iniziava ad avere troppe attività, diciamo così, voi non avete mai fatto mistero, abbiamo visto la vicenda per esempio Ansaldo Energia, ma c'era anche la componente ferroviaria, la componente aerospazio civile, la componente aerospazio difesa e poi tutta la parte di difesa di tout court, da DRS. C'erano anche i bus, c'erano anche gli autobus, ne avevamo di tutti i colori. Allora, non si riusciva a seguire tutto e soprattutto avevamo la gran parte dei settori civili in fortissima perdita e non riusciamo ad avere soldi per poter investire. Allora, da quello che ho capito, andando per esclusione, la parte militare, perché ricordo che Finmeccanica, oltre ad avere i nomi che noi conosciamo, Otto Melara, ma anche per esempio sul fronte Siluri, società che sono dei gioielli, anche frutto di acquisizioni di società britanniche, c'è poi tutto il controllo di DRS Technologies, che è il colosso americano nell'elettronica da difesa, e poi tutta la parte che riguarda la produzione di velivoli per la difesa. La parte, diciamo, chiamiamola così, di difesa resterà nel core business, nella parte centrale dell'attività, giusto? Tutto è stato assorbito nel core business e tutto è stato assorbito nell'unica impresa Leonardo, avendo lasciato fuori solamente quello che non poteva essere integrato per ragioni o di proxy, il campo della DRS americana, ovvero perché joint venture. Tutto quello che non era legato a vincoli proxy o joint venture l'abbiamo o venduto o integrato. E quindi per questo siamo una one company industriale che naturalmente è tesa a stare sempre nella parte alta della catena del valore, e quindi la parte di innovazione, sviluppo, disegno, ingegnerizzazione, e naturalmente deve riuscire a trovare il modo per poter avere un'apertura sui mercati, cercando di creare di volta in volta le localizzazioni più opportune. Senta Moretti, ancora due domande. La prima, scrivono gli ascoltatori, cosa vuol dire ancora più concretamente concentrarsi più sull'ingegneria che sulla manifattura? Perché una manifattura, fermo restando che abbiamo capito le attività che avete giudicato centrali, e questa è notizia anche di questi mesi, cosa vuol dire? Di manifattura intendo la operazione concreta di realizzazione fisica. Quando parlo di industria parlo di tutta la catena, dal mercato che deve suggerire i sogni sui quali fondare la ricerca e sviluppo, sul quale costruire il design e quindi la progettazione, e su quello organizzare quelle che sono le catene, le supply chain. Nella supply chain un anello è anche quello della fabbrica tradizionale, che naturalmente però sempre di più nel momento in cui si va verso Industry 4.0 diventerà sempre più controllata dall'esterno, anche perché si produrrà in tre dimensioni e si potrà clonare di volta in volta a seconda del mercato. Qual è il nostro problema? Rimanere nella parte alta del controllo della conoscenza e riuscire a essere sempre, soprattutto perché è un'impresa di altissima tecnologia, a essere all'avanguardia nella ricerca e lo sviluppo dei prodotti sui quali siamo leader di mercato. Quindi stare sulla parte del valore aggiunto, come si dice in gergo. Cioè, nuova industria che avrà meno fabbrica, o perlomeno oggi ad esempio in assemblea c'è stato in qualche modo rimproverato che abbiamo solamente, c'è stato detto, il 20, poco più del 20% di operai e abbiamo tantissimi impiegati. Ho dovuto rispondere che gli impiegati sono gli ingegneri e tendenzialmente vogliamo averne sempre di più e sempre meno operai. Ecco, questo infatti glielo stavo per chiedere io, cosa vuol dire sul fronte occupazione? Perché quando uno sente meno, diciamo, fabbrica intesa come manifattura di base e più parte ingegneristica, ma siamo sicuri che il tasso di sostituzione possa essere per ogni operaio un tecnico qualificato o addirittura un ingegnere? Un paese come il nostro che vuole mantenere alti redditi e un stato sociale importante, bisogna che venga a riportare le sue attività e i suoi investimenti nella parte pregiata della catena. Sempre più vi saranno coloro che ideeranno, progetteranno, mentre la manifattura diventerà automatica, un fatto esecutivo automatico, e sempre più decentrata nei paesi a basso costo. Quindi se vogliamo mantenere una prospettiva di occupazione di alto livello, di alta retribuzione e che sia solida nel tempo, duratura nel tempo, noi dobbiamo orientarci sulle parti di attività che siano di pregio, e in queste naturalmente la parte dell'ingegneria è una di queste. Allora voi avete... Altrimenti l'alternativa è che si rattrappisce sempre di più la parte tradizionale e non c'è niente a monte che la sostituisce. E noi dobbiamo evitarlo questo. Allora andiamo adesso sul traffico, ingegner Moretti, poi però vorrei capire questa cosa, perché insomma, cosa pensate di esternalizzare, cioè dare in outsourcing, come dicono in inglese, la parte finale della manifattura, cioè una volta che tutto è stato studiato, ingegnerizzato e progettato, sviluppato, la costruzione andrà all'esterno. Questo però me lo dica dopo il traffico. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. :19. Allora, ingegner Mauro Moretti, lei che è il numero uno di Finmeccanica, torniamo sulla domanda anche perché molti ascoltatori ce la pongono. Cosa vuol dire dare in outsourcing, cioè esternalizzare la parte finale della manifattura? Ripeto, se ho ben capito, voi dite la parte a maggior valore aggiunto, l'ingegnerizzazione, il progetto, lo sviluppo, lo fate in casa e poi cosa affiderete all'esterno, alla costruzione vera e propria? Noi abbiamo le parti fondamentali, le parti core della nostra produzione che le manteremo sempre dietro. Quelle che sono delle parti di poco pregio e che possono essere trovate sul mercato a minore costo, è evidente che dobbiamo decentrare. Mi fa solo un esempio? Per questo dobbiamo ricreare naturalmente una supply chain di alta qualità, perché oggi nel mondo, soprattutto nel nostro settore, vincono dei supply chain di qualità. Cioè i fornitori di qualità. Mi dà un esempio su questo dove interverrete a breve? Ad esempio, noi abbiamo un settore ampio che è tutto quello della carpenteria. Beh, quello dovremmo ragionevolmente, in maniera progressiva, tendenzialmente ridurlo e sostituirlo quello con attività invece di pregio, in cui si fanno anche, va di bene, manifatture di particolari sistemi, penso satelliti, che però fanno gli ingegneri. Ok. Un'altra roba, tutta la manifattura che è o di serie, quindi già automatizzabile di per se stessa, ovvero di tradizione in cui si usano ancora cannelli di saldatura o roba di questo genere, la stanno facendo già a un decimo del costo da altre parti. E purtroppo la stanno facendo anche da buona qualità. E quindi se insistiamo a rimanere di sopra, saremo fuori mercato perché i costi si strozzano rispetto alla concorrenza. Senta, questo prevede una riduzione dell'organico complessivo? Non prevede una riduzione dell'organico. La riduzione dell'organico è prevista semplicemente perché abbiamo avuto in eredità una situazione con produttività bassissima. Noi abbiamo alcune fabbriche in cui la saturazione era a livello del 50%. Per questo evidentemente dovremmo fare operazioni. Ma al di là di questo problema che è del tutto contingente, non c'è un problema di riduzione di occupazione, semmai anzi c'è un problema di avere una ricostruzione del nostro rapporto col sistema di education nazionale ed internazionale, siamo un'impresa internazionale, che alimenti in tempo le figure di cui abbiamo bisogno. Sono quelle più pregiate, soprattutto nella parte ingegneristica, ma non solo, penso alla matematica, penso alla fisica, a tutte le scienze che in questo momento compongono l'alta tecnologia. Ecco, mi dica in 30 secondi, ma quindi questo vuol dire anche un rapporto più intenso con i politecnici, le facoltà di ingegneria in Italia, sto parlando, le università, anche ipotizzando borse di studio o stage, diciamo, integrati? Non sono ipotizzate, abbiamo fatto quest'anno per la prima volta dei premi dedicati ai giovani dell'università e abbiamo premiato a Expo una ventina di persone che hanno prodotto delle cose meravigliose. Abbiamo recentemente, qualche giorno fa, una settimana fa firmato col Politecnico di Milano un rapporto stabile per poter fare sì che riusciamo con il Politecnico a stabilire un rapporto sinergico per il futuro. Lo vogliamo estendere, naturalmente non a 100 università, perché certo, altrimenti torniamo nel brevetto italiano in cui tutto più o meno è uguale. Lo vogliamo fare con le eccellenze dell'Accademia Italiana e anche internazionale. Considerate che noi abbiamo anche, consideriamo come mercato domestico la Gran Bretagna piuttosto che gli Stati Uniti o la Polonia, e vogliamo estenderci alla Germania, ad altri. Allora, come ricordavo prima, il gruppo ha chiuso il 2015 con un margine operativo, un utile prima del pagare le tasse e gli interessi, si chiama EBITDA in gergo, di 1.900.000.000 più 20%, un risultato netto di 527 milioni, e l'indebitamento che è sceso del 17% a 3.200.000.000. Vorrei capire l'ultima cosa, DRS Technology, a cui facevo riferimento prima, fu questa acquisizione molto importante ma pagata tantissimo, c'è chi disse fu lo scambio che Bush figlio diede a Berlusconi per la partecipazione alla guerra in Iraq, non mi interessa questo, adesso siccome quello è il gioiello americano nella elettronica da difesa, voi cosa farete di DRS Technology? Cederete una parte, la maggioranza del capitale? Dunque, noi vogliamo mantenere il controllo della società. Quando io sono arrivato tutti mi invitavano a vendere immediatamente DRS. Peccato che l'avevano pagata 5 miliardi e 400 milioni di dollari e ne valeva allora 1,5 miliardi, poco più. Già la società, dopo l'intervento che ne ha fatto in questo anno e mezzo, è migliorata moltissimo, le cifre, i numeri lo stanno a dimostrare, sono ritornati a un'entità superiore a 10 e abbiamo ricostruito tutta quanta la cosa attraverso un'operazione anche lì di concentrazione sul core business, potatura di tutto quello che non serviva e adesso investimento sul core business. Vogliamo mantenere il controllo perché il mercato militare è importante per dimensioni, ma soprattutto per qualità. Lì si fanno le innovazioni più spinte e noi vogliamo partecipare. Per quanto riguarda invece, come fare? Possiamo naturalmente pensare a un partner finanziario, in quel caso finanziarizzeremo parte delle nostre azioni mantenendo, ripeto, il controllo assoluto, ovvero la costruzione con il mezzo di un partner industriale che ci possa aiutare su quel mercato che è particolarmente complicato e anche molto spesso lavora in termini di captive, non tanto di particolari liberalizzazioni. Invece, tornando un attimo alle cifre, la cosa che io ritengo più importante e che abbiamo fatto per 2 anni consecutivi, l'anno scorso pochissimo, quest'anno risultati con cifre nere, utili, risultato netto, cassa, abbiamo ridotto il debito di 600 milioni, abbiamo aumentato l'equity fino a 4 miliardi e oltre, il rapporto debito-equity adesso è 0,76, prima era 1,5, capite che con 1,5 nel nostro settore non si andava distante. Allora grazie all'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti. Grazie molte, grazie di tutto, arrivederci. E chiudiamo questa puntata con il tema europeo. Perché? Perché oggi il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis, ha incontrato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e anche è stato sentito in audizione al Senato. Ha detto l'Italia è un po' sopra la media dell'Unione Europea per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni, ci sono progressi sul deficit ma alcune deviazioni, la ripresa è piuttosto bassa, piuttosto sommessa. Bene l'Italia sulle riforme, ma lo sforzo continui. E poi ha detto al massimo avrete lo 0,75% del PIL come flessibilità, ma non abbiamo ancora deciso. Siamo disponibili a esaminare la richiesta dell'Italia e di 7 paesi di riconsiderare l'output gap, cioè l'effetto sul PIL delle riforme. È già qualcosa, e lo chiedo a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Ciao, Guidi. È un cognome un po' delicato in questo momento. Buonasera Guido, perché tu oggi scrivi su Sole 24 Ore dire addio all'Europa dei piccoli compromessi e richiami quello che è stato l'intervento di Weidmann. Poco fa è uscita l'agenzia che sembra andare bene, essere andato bene l'incontro tra Alfano e l'omologo austriaco. Cosa vuol dire addio all'Europa dei piccoli compromessi? Ma io ho messo in evidenza che il presidente della Bundesbank ha chiarito, diciamo, quella che è la reale situazione dell'Europa, un'Europa, come sappiamo, incompiuta, è un'Europa che fatica a camminare sulla strada della crescita, è un'Europa che fatica a rispettare le stesse regole che si è data con il patto di Maastricht e i successivi regolamenti. Ora, lui mette un dito un po' nella piaga quando osserva, secondo me, che la Commissione è diventata un po' una stanza di compensazioni di interessi, diciamo, tra gli Stati, e quindi procede con dei compromessi a ribasso. Questa questione della flessibilità, in effetti, è questa guerra sul filo dei decimali, ti do lo 0,2, no? mi dai lo 0,1, e via andare, nel frattempo con il pareggio di bilancio che sempre viene posticipato quando va bene, se non, diciamo, valicata sempre la soglia del 3%, come nel caso della Francia. Beh, insomma, credo che questa sia la realtà vera dell'Europa, e credo che l'Europa invece abbia bisogno di uno shock, diciamo, per cercare di risalire la china davvero. Quindi con piccoli compromessi di ribasso sono procedere sulla strada dello zero virgola, e in questa partita della flessibilità siamo sulla strada dello zero virgola. Però Guido, per concludere, il tema di cui abbiamo parlato anche ieri dei trattati, dei confini, quindi Austria, il Brennero, ma non solo, non è anche quello una delle regole da rispettare? Perché sennò l'impressione è che l'Europa sia attenta alle regole solo sui decimali italiani e sugli accordi greci, che adesso insomma si vogliono anche rivedere. E certo, sul discorso delle frontiere, che è un discorso di grandissima attualità, come vediamo quello che è successo al Brennero o che rischia di succedere al Brennero, beh, insomma, su questo tema le regole vanno tenute. Semmai, se ci sono delle regole antiquate, le cambiamo, però è chiaro che su questo terreno si gioca davvero la sopravvivenza dell'Europa, perché non è certamente poi che la salviamo con gli zero virgola di bilancio. Le salviamo se riusciamo a mettere in piedi delle politiche di crescita per questo continente, e se riusciamo a mettere in piedi anche la soluzione, ad esempio, di un problema, di un'emergenza straordinaria come quella dei migranti. E adesso rinvio il nostro GR24 per gli ultimi dettagli dell'incontro tra Alfano, appunto, e il ministro degli interni austriaco. Grazie intanto a Guido Gentili, che avremo a breve nostro ospite. Da Sebastiano Berisoni, auguri di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.